www.lavozza.info. Sul sito della radio si può anche trovare il banner specifico della nostra campagna di crowdfunding, il nostro radio abbonamento, 30 euro per 1000 ascoltatori. Andando dentro si possono trovare le modalità di adesione. Prova tecnica sarà l'ultima trasmissione per oggi, 7 settembre 2022, e quindi 25 o'clock vi dà appuntamento nelle prossime settimane. Saluto Anna qui a Roma, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Antichrist di omicidio in quel di Firenze, Asia Liguori a Taranto, Doriana Panico anche lei a Taranto, Moschita dei Miramari in Olanda, Harlem. Sempre a Taranto, Giovanni Lisi, quindi c'è una colonna, diciamo, pugliese qui all'ascolto. Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal. Orlando Furioso, Cecilia Miradoli del progetto Pindare, Rico Ponzoni di Sokushi Butsu Project. Giulia e Serena qui a Roma. Saluto anche Like Wake, storico progetto Ambient, e Valerio Michetti della Grazia Obliga e Umanima, dei quali uscirà un altro nuovo lavoro a fine mese, se non sbaglio. Giovanni Lisi ci casco sempre, è vero, io sono fissato che stia a Taranto, in realtà sta a Bari. Ho azzeccato la regione ma non la città, comunque lo abbracciamo. Il primo ascolto invece riguarda un artista proprio qui di Roma, si chiama Nosfera, un artista che sta un po' del materiale ormai molti anni fa. Dietro Nosfera si nasconde Cesare Marilungo e stiamo parlando di circa 25 anni fa. Fece del materiale dal chiamato Early Works, che ci ascolteremo questa sera, tra ambient e minimalismo elettronico, e successivamente poi si spostò invece in un ambito più neofolk. Ci ascoltiamo Cold, This Something e Brain Sample. We'll be right back. Thank you. Le soluzioni sperimentali con cui abbiamo aperto questa sera appartenevano a Noosfera di Cesare Marilungo. Early Works, un materiale rintracciabile in free download su Internet Archive. Sia questo sia Jungian Epiphanis. Andiamo avanti ancora, Italia, lui è Paolo Monti, dietro lo pseudonimo The Star Pillow. Livide soluzioni ambient con innervati di variazione elettroniche. The Star Pillow, o The Star Pillow che dir si voglia, comunque l'album in questione si chiama We Were Never One ed esce per la nostra carissima Dissipazio di Nicola Quiriconi. Ci andremo ad ascoltare la quarta traccia dal nome The Death of Small Promises. The Star Pillow, dunque, di Paolo Monti, questo ultimo lavoro, We Were Never One, in realtà una colonna sonora originale di una performance di danza contemporanea di Karin Fire. Carezzevole da un lato, siderale dall'altro, almeno in questa circostanza, come potete già apprezzare, c'è già un cambiamento di approccio musicale in questo The Star Pillow, che chiaramente ci ascolteremo in prospettiva. Lunedì scorso ci siamo gustati l'ultimo lavoro Amberstone dei In The Nursery, alfieri del sound più marzial neoclassico. Questa sera un altro pezzo di storia per quanto riguarda le sonorità più marzial neoclassiche e neosinfoniche, almeno in una parte della loro lunga carriera, anch'essa quarantennale al pari dei In The Nursery. Sto parlando degli sloveni Laibach, che da queste parti sono assai popolari, ed è uscito un interessantissimo lavoro proprio in questo 2022 dal nome Wir sind das Volk, un excursus nella storia della Germania. Con l'ispirazione di uno scritto di Heinen Müller. Un bellissimo cofanetto con interessanti foto all'interno. E questa sera ci ascolteremo Der Vater e Ich bin der Engel, den Vers Weinflung. Ich bin der Engel der Verzweiflung. Mit meinen Händen teile ich den Rausch aus, die Betäubung, das Vergessen, Lust und Qual der Leibe. Meine Rede ist das Schweigen, mein Gesang der Schrei. Im Schatten meiner Flügel wohnt der Schrecken. Meine Hoffnung ist der letzte Atem. Meine Hoffnung ist die erste Schlacht. Ich bin das Messer, in dem der Tote seinen Sarg aufsprengt. Ich bin der sein wird. Mein Flug ist der Aufstand. Mein Himmel der Abgrund von morgen. Sentite un po' che carica questi Laibach da questa ultima loro fatica, Wir sind das Volk, Ein Musical Haus Deutschland. Grande ultimo lavoro, molto neoclassico, sinfonico. Ricordiamo Laibach, in realtà è il vecchio nome di Ljubljana, la capitale della Slovenia, da dove provengono proprio i Laibach. Al tempo degli Asburgo. A tratti anche abbastanza da cabaret, come potete sentire. Un progetto che si è dipanato su queste atmosfere, quelle più severe degli esordi, poi l'elettronica, anche delle parentesi quasi metal. Attualmente c'è ancora il vocione di Milan Frass, Jan Novak e Mina Spieler, ma si circondano anche di svariati musicisti per quanto riguarda almeno la loro, le loro performance live. Saluto Dario Righi e Dario Righi sarà capo a Fontana del progetto No Name. Ist nichts verboten, drum gib Vollgas und flieg um die Welt. Adesso andiamo da Sisto Palombella, valente, splendido fisarmonicista, che ci ha deliziato anche nel passato con il suo bellissimo strumento, applicato anche, se vogliamo, alla sperimentazione. E di lui ci ascolteremo un brano estratto dalle civette, che si può anche rintracciare sul suo corposo profilo Bandcamp. Questa sera ci ascoltiamo la lunga traccia dal nome La Biscia Carmela. e c'è da rimanere effettivamente incantati con la fisarmonica di Sisto Palombella applicata in questo modo, concepita in questo modo, con queste atmosfere così evocative, oniriche ma enigmatiche allo stesso tempo. Questa era la Biscia Carmela. Ci sono delle interessanti annotazioni sul profilo Bandcamp riguardante questo lavoro. Le civette suoni basati, suoni moderni basati su ancestrali ricordi. La fisarmonica intesa anche come sorta di sintetizzatore acustico, e il titolo Le civette prende spunto da... ed è anche dedicato alla un'amica russa del buon Sisto Palombella, tale Elisabetta Fedorova, e è una civetta di stoffa, un regalo che per molto tempo non era arrivato nella casa di Sisto Palombella, ma che è stato in un certo senso stimolo per quest'idea, un'idea generale dell'album, come scritto qui, che sarebbe quella di voler creare una serie di personaggi che abitano non in una casa cittadina di tipo moderno, ma in una vecchia casa di campagna dove vi sono vissuti e si vivono ancora momenti quasi bucolici, e quindi si è voluto umanizzare insetti, animali, persino un raggio di sole, e le civette guardano tutto questo da quel ramo lassù. Fisarmonica con reverberi, delay, effetti vari. Una lunga opera di Sisto Palombella che vado a salutare. Ed è bello sentire la fisarmonica suonata con il rumore delle dita che scorrono veloci sulla tastiera. Saluto Noise Cluster con Arianna Degni Lombardo e Flavia Oderbecande, Davide Mastrullo di Clangore, un abbraccio a lui, un altro fedelissimo, il medico della peste. E da Sisto Palombella andiamo in Giappone da Raffaele Pezzella, o meglio, Raffaele Pezzella, come molti sapranno, vive in quel di Napoli, ma ama questa etichetta, la Nesplit Sounds Group Label, e ha varie affiliazioni. Un'etichetta che ospita delle compilation che riguardano tante parti della nostra terra, e in questa circostanza appunto il Giappone, tutta la scena sperimentale, o almeno una parte importante di questa, di questo contesto. Cominciamo con l'ascoltarci Kazuya Ishigami con Tomi Robo, e poi la decima traccia di Linne, una traccia che porta il nome di Metsu.